La Giunta ha approvato le linee guida per il nuovo bando taxi, sono in arrivo quindi 72 nuove licenze su Bologna. Il bando verrà pubblicato penso entro il prossimo mese e quindi ci darà modo di ampliare la flotta taxi della città con almeno 31 licenze prioritarie, quindi destinate al trasporto delle persone diversamente abili. Qualche altro dettaglio? Il bando è frutto di un lungo lavoro svolto insieme ai tassisti che punta a migliorare il servizio nel suo insieme, quindi nel bando ci sono delle premialità che riguardano per esempio la disponibilità dei nuovi tassisti a lavorare in orario serale o nei weekend. Questo è uno degli aspetti sui quali si interviene anche con una modifica del regolamento taxi. Un altro aspetto importante che viene messo in pista insieme al bando è la nuova app, quindi la cartella di servizio elettronica per i tassisti, che servirà anche ad avere un riscontro puntuale sulle nuove misure messe in campo dall'amministrazione. Noi abbiamo lavorato insieme ai tassisti e credo che sui punti cambiamento del servizio in termini qualitativi siamo tutti d'accordo. Il prezzo di vendita delle licenze è stato oggetto di un confronto con i tassisti, ma anche di un confronto con l'autorità nazionale, che ci ha dato indicazioni in linea con quello che sta accadendo nelle altre città, quindi è un prezzo vantaggioso per implementare il servizio. Da questo punto di vista vedremo se ci saranno dei ricorsi, però credo che davanti agli occhi di tutti sia necessario migliorare questo servizio. Aggiungerei anche che il contributo per l'acquisizione delle licenze è più basso della vendita di una licenza tradizionale, ma questo contributo viene interamente suddiviso fra i 722 tassisti in attività a Bologna, differentemente da quello che si faceva con la vecchia normativa quando veniva incassato dal comune.